3927-3109. C'è già una prima telefonata, naturalmente. Pronto? Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare Radio Popolare per il servizio che ha fatto ieri, perché è stato fondamentale per chi, come me, era a casa. Faceva da ponte con i ragazzi che erano giù a Genova, da quello che ci dicono loro e dai ragazzi che sono ancora a Genova, da quello che è successo sembra veramente che Genova sia Santiago del Cile, non una città italiana, Santiago del Cile. Chiamiamo Genova Santiago del Cile e chiamiamo il capo della Casa della Libertà Pinochet. Piccolo Pinochet, è ora di finirla. Ciao, sono Simone, sono tornato da Genova abbastanza sconvolto. Ho avuto fortuna di incontrare un genovese che ci ha fatto defluire. È una strategia fortissima che è stata usata a Genova, strategia militare e mass mediatica, contro cui l'unica possibilità è quella di tornare in piazza, tornarci in tutte le piazze d'Italia al più presto, perché quello che stanno mettendo in discussione è il diritto di manifestare, la criminalizzazione delle manifestazioni. Non è solamente la questione di chiedere le dimissioni di quel deficiente, perché secondo me è un deficiente Scajola, che si è occupato di mettere le piantine per fare da tappeto al suo capo padrone Silvio Berlusconi, e a quell'altro imbecille di Fini, come imbecille chi l'ha votati, va bene? Questa gente l'ha mandata a casa e la sinistra moderata che non è scesa in piazza deve vergognarsi, va bene? Non è pensabile che 8 rappresentanti di 8 nazioni si arrogano il diritto di parlare per il mondo intero. La sinistra moderata da tempo ha calato le braghe, io non ho più rinnovato la tessera, non lo farò più, va bene? Una cosa, sono arrabbiatissima, addoloratissima. E in più, scusa, sono un po' emozionata, io non sono potuta andare a Genova, però ero là con tutti i ragazzi che erano lì, uomini, vecchi, disabili, chiunque insomma, e che tramite voi ho seguito sempre tutte queste giornate. E voglio rilacciarmi a quello che ha detto la persona che ha chiamato prima, bisogna scendere in piazza di nuovo, in qualsiasi modo, non ho l'idea di come, però farci vedere. E in più, tutte le persone vorrei rincuorare, e quelli che sono stati lì, che hanno preso le botte, che hanno subito sopruso, di denunciare tramite gli avvocati, le associazioni, cioè si deve sapere, la gente non deve vedere solo la televisione, Mediaset, la RAI, deve sentire anche gli altri, quelli che erano lì, noi. Ciao, grazie. Sì, pronto, ciao, sono Guido, chiamo da Bergamo e sono stato ieri a Genova. Ma prima di tutto volevo ringraziarvi, vi devo anche il fatto di essere andato a Genova, cosa che sennò non avrei fatto. Vorrei riagganciarmi al discorso che ha fatto uno spettatore che è intervenuto prima, cioè la incredibile assenza del Movimento Democratico della Sinistra e la presenza debolissima della componente sindacale. Io credo che se la sinistra fosse scesa in campo ieri non sarebbe successo quello che è successo. E lo trovo una cosa di una gravità assoluta, e secondo me va detto che il Partito Democratico della Sinistra non è stato latitante in questa situazione, è stato oggettivamente connivente con questa concezione dello Stato e della mancanza di democrazia portata avanti scientificamente dal governo Berlusconi. Su questo bisogna precisare che la decisione dei coordinatori di DS di revocare l'indicazione di partecipare è stata presa così alla sprovvista che tanti dirigenti di partito hanno detto di averla appresa dalla televisione. Molti dirigenti, oltre che militanti di partito, erano qua a Genova, sfilavano, di bandiere di DS ce n'era una sola, portata da un giovane, almeno i cronisti una sola ne hanno vista. Siccome sono stati detti che se intervenivano i democratici di sinistra queste cose non sarebbero successe, siccome io sono il DS, io ritengo che innanzitutto è spiacevole per quanto è successo riguardo a quel povero ragazzo che è morto, ma sicuramente se il Genova Social Forum non riesce a isolare i violenti dal proprio gruppo succederà sempre di peggio. Vabbè, ieri sono stato a Genova anch'io, ero nella seconda parte del tronco del corteo. Quello che però io non ho mai visto in televisione ieri sera, non ho mai sentito, è l'amicizia che abbiamo ricevuto dai genovesi. Ero fermo nel vialone sotto il sole perché il corteo era fermo e dalle finestre le vecchiette genovesi ci tiravano giù l'acqua per tenerci freschi. Le scatole craniche, in effetti, è vero che contengono tutto e ricordano tutto, però come abbiamo visto vengono spaccate abbastanza tranquillamente, e potreste fare un'operazione tipo il CD con una sottoscrizione un CD da allegare con la registrazione di quello che è successo stanotte. Credo che ce ne vorrebbero una decina di CD per documentare tutto quello che abbiamo registrato in questi giorni. Un elegante cofanetto al pesto.